aiutatemi. Di questo film e tanti devi capire qualcosa che noi fa dentro di campagna. Grazie. Anche io volevo anche approfittare questo momento di parlare di una iniziativa qui a Caserta giù dove sono. Siamo anche adesso a cercare anche di finire questa appuntamento. E 10 giorni fa che abbiamo organizzato una sciopero e dove diciamo che noi immigrati non possiamo lavorare meno di 50 euro. Però abbiamo fatto questo non è perché vogliamo più di soldi, anche se loro decidono alla fine di dare più di soldi, anche vogliamo che capiscano che noi vogliamo che loro vi dare a noi nostra dignità, perché chi lavora in campagna anche da questa persona dà molto cosa di più che una persona che come si dice lì che i clandestini sono criminali, la realtà il criminale sono loro, perché sono loro che sfruttano, anche sappiamo tutti che anche loro li sfruttano, però se noi abbiamo deciso di manifestare e vuol dire che chiediamo una cosa naturale, non è una cosa falsa, la realtà. Però insieme possiamo anche si dare la mano per cercare di affermare, perché se pensiamo tutti, nessuno non si alza la mano, che tu pensi che sì, loro devono fare qualcosa per noi. E chi è loro? e se tu hai il braccio, il piede per fare, perché non inizi a fare che altri ti vieni questa cosa. E così siamo adesso, iniziamo anche a sensibilizzare un po' di gente, di capire la riguarda di più, anche usarlo. Quando lavoravo lì era difficile, però lavoravo, non mi sentivo male, però mi sentivo male che loro mi prendevano come un animale, e quello mi faceva male. Anche dove dormevo lì, dalla fabbrica abbandonata, dove quando piove l'acqua entra, però non ho posto come umano dove dormire. Però noi dormiamo lì contenti per lavorare, anche se la mattina vai a cercare lavoro, anche se non troviamo lavoro e ritorniamo qua, lì, come si chiamiamo noi, a nostra casa. È dignitoso che chiedere a qualcuno o vado su strada per chiedere soldi o di fare di cosa che non è legale. E questo che andiamo lì per lavorare. E così viviamo lì male, anche se vai a un caffetteria a usare per pagare un caffè. Quando entra ti guardano così, anche se ti paga con tuo soldo il caffè, non mette da un tasca, mette da un bicchiere per te. E per, viviamo, diciamo altri che sì, anche se loro mettono dal bicchiere, è un rispetto per te, perché il bicchiere è solo tu solo che vivi questo, ed è bevuta, non devi arrabbiare e devi accettare, lo sappiamo che non è normale, siamo tutti uguali. È così, però penso che altri non pensano così di quello che fanno loro. Però anche nel 2008, quando siamo arrivati in Italia, anche a Rosano hanno sparato le gente avanti a noi. Però questa, abbiamo fatto una piccola manifestazione sulla strada, nessuno non ha mai sentito questa. Però questa volta era una decisione che abbiamo pensato che sì, noi rimaniamo sempre senza parlare, nessuno lo capirà mai, nessuno non farà qualcosa, e abbiamo deciso di manifestare. E così alla fine era difficile, perché vedere un africano o un straniero in Rosarno era come vedere vedere un nero era come vedere il diavolo, come diceva lui, era la verità. Però piano piano penso che tutto va a cambiare, niente è impossibile. Però pensiamo così, che possiamo anche cambiare qualcosa. Anche quest'anno altri sono già andati a Rosarno adesso, e la stessa problema, la casa per dormire non c'è, loro devono anche dormire la stessa posta. Loro dicono lì che non potete più dormire su questa casa abbandonata. Hanno dato i soldi, in Europa hanno dato soldi a loro, 2 milioni per fare una casa d'accoglienza, però ancora no. E quelli che stanno già partiti dice che non c'è casa, anche loro adesso dormono ancora, e i soldi deve stare. Beh, sì, penso che tra l'idea che possiamo anche dare altri, possiamo fare cadere qualcosa. Sì. Io ho chiesto scusa in italiano un po' così. No, grazie per aver imparato la nostra lingua, grazie. Però per vivere insieme dobbiamo anche imparare. Et quand je suis arrivé en Italie ici, mon premier départ c'était à Lampedusa. On a resté dans la mer pendant 2 semaines. On a eu la difficulté parce qu'il y avait des femmes et des enfants de 12 ans et une femme qui est en grossesse. Ce qui m'appuie toujours, et quand je pense toujours au cours dans ma vie, que quelqu'un qui ne peut pas quitter dans son pays parce qu'il veut de l'argent, parce qu'il a des problèmes. En Afrique aujourd'hui, c'est un continent que notre gouvernement en Afrique, ils ont des idées seulement privée pour lui, pour elle, pas pour la population. C'est la guerre, le problème de l'illusion, le problème des familles. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'un noir en Italie, c'est pas qu'il est venu pour cesser de l'argent. Demande-lui d'abord. Vabbè, diceva che lui quando è arrivato qua in Italia, mi ha preso? Due anni fa è arrivato a Lampedusa dopo due settimane in mare, cioè ovviamente che l'attraversata è stata molto difficile con bambini, donne, c'era cioè una donna incinta che insomma non facilitava il passaggio. Il problema della guerra. Cioè che comunque il problema della guerra che lui ha nel suo paese, per cui i governanti del suo paese non si occupano, gestiscono il paese in maniera privata, quindi con la guerra che non loro tornano conto e non si preoccupano della popolazione che vive giù. Perché se moi j'ai quitté dans mon pays depuis en 2000. Lui è passato dal suo paese nel 2000. Perché j'ai eu un frère qui était le journaliste. Les hommes des politiques ont la tué parce que moi, quand j'étais petit, il m'a trop soutenu à l'école. Lui è dovuto partire perché aveva un fratello maggiore che lo aveva aiutato negli studi, che era un giornalista e che i politici hanno ucciso. E quando je suis parti de mon pays parce que mon père n'est plus. Et ma mère, qui le trouvait, qui ne sait pas quoi faire, ben, j'ai obligé de quitter parce que, avec les manifestations, je risque. Mettre ma vie en danger. Et ma mère aussi, je reste à côté aussi, et toujours elle va traumatiser à chaque moment. C'è che anche suo padre è morto e che sua madre è piuttosto anziana e che quando lui è iniziato a crescere, ha iniziato a partecipare a delle manifestazioni giù, e sua madre era preoccupata di tenerlo lì, aveva paura che gli succedesse la stessa cosa di suo fratello e quindi insomma, lo ha spinto a scegliersi una vita diversa. E quando sono rentré a Libia, je suis resté à Libia pendant 3 mois, resté dans les prisons, à la capitale qu'on appelle Tripoli. Et cette prison, j'ai vu beaucoup de difficultés de plus. Que je ne pense pas que la vie de l'homme, qu'est-ce que tu peux suivre dans ta vie? C'est l'argent ou c'est la vie? L'homme ne doit pas rester dans sa vie tel que non. Je dois gagner l'argent et traverser cette la mer pour étaler ici à cause de l'argent. C'est là beaucoup ne comprennent pas. Ah bon, personnellement c'est ça. Quando poi è riuscito ad arrivare in Libia, è stato arrestato a Tripoli per 3 mesi, e mentre era in carcere, comunque anche nel periodo che è rimasto in Libia, cercava comunque di ottenere, di avere i soldi per riuscire a pagare la traversata del Mediterraneo. Per concettare un attimino più ampio. Quando sono andato in Italia, il mio primo départ était a Rosario. Et j'ai trouvé un Africain et puis il a Dina pour le un cas qui prend les gens pour emmener dans les campagnes. Allora, quindi la sua prima sosta dopo la Lampedusa in Italia è stata a Rosarno, dove ha incontrato un africano, quale gli ha mostrato che era la persona che si occupava di trovare lavoro, di trovare la forza lavoro per i campi. Parce que quand j'ai d'abord commencé avec ce type, moi je sais conduire la voiture. Il m'a dit le premier temps, comme moi je sais conduire, je dois prendre ces travailleurs pour amener dans les campagnes. Et moi je lui ai dit que bon, moi je sais conduire, mais je n'ai pas de permis. Et si c'est le policier ou le carabinier aussi ou qu'on m'arrête, qu'est-ce que je dois lui dire? Ce jour, il m'a dit que bon, si tu sais conduire, si tu ne vas pas faire ça, donc tu vas rester à la maison. Tu ne vas pas travailler parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche du travail. Cioè che il primo lavoro che gli è stato offerto era quello, siccome lui sapeva guidare, di fare proprio l'autista e accompagnare le persone a lavorare nei campi. lui ha posto il problema del fatto che lui è vero che sapeva guidare, però non aveva la patente, che quindi se la polizia e i carabinieri l'avessero fermato, se questo poteva essere un problema. E il suo amico gli ha detto: guardi, qua di gente che vuole lavorare ce n'è tanta, per cui se vuoi fare questo bene, se no resti a casa e non guadagni. E ce momento j'ai oublié de faire, j'ai oublié de prendre son camion, et je prends les hommes à venir dans le campagne. Et ce qui me fait mal, parce qu'il me payait 27 euros et il prend de l'argent de voiture des euros. Donc je reviens la journée à 25 euros. E cioè, quindi lui è stato obbligato a accettare questo, questo lavoro, e abbastanza, come dire, non particolarmente felice, è stato obbligato a farlo. Quello che lui guadagnava erano 27 euro a giornata per trasportare le persone, ma poiché il mezzo era di questo amico, l'amico si teneva i 2 euro del costo del mezzo, quindi lui ne guadagnava 25 effettivamente. À la fin, je suis quitté aux armes quand j'ai rentré à Caserta, parce que je n'avais pas, quand je suis sorti au camp là-bas, on arrivait le moment qu'en Italie ici, on disait qu'il y a la vote d'élection. On a resté au camp là-bas pendant 3 mois. Il nous a fait sortir avec des séjours de 3 mois. Bon, quand je suis sorti, j'ai promené aux armes, c'est donc séjour de 3 mois là, c'est fini. Je suis rentré à Caserta, j'ai trouvé une association. J'ai pas compris là. Scusate. Parce que. Quindi poi è partito da Rosarno e è andato a Caserta. A Caserta, ok. J'ai trouvé une association qui s'appelle Centro Sociale. Dove hai incontrato i ragazzi del centro sociale? Je les explique mon problème parce que je n'ai pas rencontré la commission pour permettre ces jours. Okay. A cui ha spiegato il suo problema, ha detto che lui ancora non aveva avuto l'incontro in commissione per in quanto richiedente asilo. Et ce moment j'ai commencé à travailler avec eux, c'est le meilleur. Quand quelqu'un vient avec son problème, c'est traduit français, il parle. S'il y a beaucoup de frères, bon, ils parlent la langue africaine, ils ne comprennent pas français. Comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux. Il y a eu un temps que j'ai vu que ce n'est pas facile parce que quand j'ai fait ce travail, parce que j'ai la volontaire. Parce que ma famille, ma mère, si je l'appelle à chaque moment, il y a des problèmes, des petits problèmes. D'accord, c'était obligé encore de laisser ce travail et puis partir à Green 10 et puis il faut y aller travailler automatiquement. Per cui quindi lui con questa associazione ha iniziato a lavorare come volontario, facendo da traduttore, cercando appunto di aiutare altre persone che erano nella sua stessa situazione, però poi ovviamente dopo un certo tempo c'era comunque un problema di soldi, per cui aveva bisogno comunque di mandare dei soldi giù anche a casa, e quindi è iniziato a ricercare lavoro nell'agricoltura, a Brindisi e in giro. E alla fine, quando io resto con il lavoro finito in campagna, io rentro a Caserta e io continuo a aiutare il centro sociale per lavorare fino al momento che la commissione mi ha appelé. Et je suis allé à la commission, bon, ils ont trouvé que mon problème c'était un problème vers ma réelle et un problème vers ma c'était pas facile que je reste dans mon pays. Donc on m'a trouvé des super permis de séjour, bon, c'est la suivante. E niente, quindi adesso alterno, diciamo, il lavoro in campagna con il lavoro volontario presso questo centro sociale. Nel frattempo è riuscito a fare il primo incontro commissione, e a cui hanno risposto positivamente, rilasciandogli quindi un permesso e cercando di aiutare e dargli delle possibilità per regolarizzare la posizione in Italia. Ok, je vais remercier à tout le monde, mais le problème de Rosarno, moi je demande à tous les Italiens que le problème de Rosarno. Rosarno, aujourd'hui, devient international à cause de ce problème. Si on parle de Rosarno, on parle d'Italie. Mais je demande toujours au gouvernement italien, ils n'ont qu'à regarder toujours pour mettre la sécurité. Si nous, on travaille des campagnes, savez pas combien on gagne, 25 euros, qu'est-ce que ça peut me faire? Je peux payer des habits, je vais manger et je vais louer la maison. Et combien? 25 euros par mois, je reviens à 400 euros. 400 euros, moi, tout ça, mais moi, va finir. Je n'ai plus rien. Si je m'en vais dans les Caritas pour demander, à chaque moment, tu penses que tes idées, tu es obligé de changer des idées qui sont dans ta tête. Mais c'est quel problème qu'on pense un Africain, un noir, il est venu ici pour travailler. Parce que ça me fait mal que quand on voit à la télévision, on dit que les Africains sont des criminels. Depuis moi, je vis ici, je m'en vais à 3 ans. Je n'ai jamais vu un noir qui a volé à Napoli ou à Caserta. Moi, je n'ai pas envie. Quelqu'un qui passe, il n'a même pas encore fini son problème. Comment? Perché Rosano è diventato un problema mai riconosciuto a livello internazionale proprio per quello che è successo a gennaio. Però appunto il quadro era quello di persone che lavorano per 25 euro al giorno, quindi con 400 euro al mese non riesci neanche a pagarti, non riesci al limite a arrivare alla sopravvivenza. E quindi insomma, che ovviamente una persona che viene qua per lavorare, per vivere, cioè, cerca qualcosa di altro, qualcosa sicuramente di più. E che una delle cose che sicuramente lo infastidisce di più è tutta la retorica che c'è rispetto al fatto che i neri o gli immigrati sono dei criminali, eccetera, mentre lui dice: io in 3 anni che sono qua non ho mai visto un nero rubare qualcosa. E se che on a fait le soprano a Caserta, il y a des italiens qui disent che, ouais, mais toi tu demandes 50 euros, mais moi je travaille 40 euros. Mais moi j'ai dit, le travail que je fais dans les campagnes là, les matins je monte, présentement je viens de finir le travail de tabac à Caserta. C'è lo sciopero che hanno organizzato a Caserta per i 50 euro alla giornata. Ci sono stati degli italiani che hanno detto: tu chiedi 50 euro, io ne guadagno 40. Io dice: sì, però io, per esempio, il lavoro che ho appena completato adesso nel tabacco, mi accavo. Je travaille le tabac, je monte le matin à 6h30 et je finis à 6h30 du soir. Et 30 euros. Et cet moment, cette patronne dit que non, mais il n'y a plus de travail beaucoup. Si tu es d'abord, tu vas travailler 25 euros. Si tu n'es pas d'abord, il faut aller à la maison. Appunto, lui si faceva 12 ore dalle 6:30 del mattino alle 6:30 di sera per 30 euro. Poi adesso è stato lasciato a casa, il proprietario gli ha detto che solo che adesso c'è meno lavoro, per cui o lavora per 25 euro oppure può starsene a casa. J'ai obbligé de le faire. E quindi è obbligato a farlo. No, merci beaucoup. Grazie. Se avete qualcos'altro. Io volevo anche dire ancora due frasi. È che adesso noi siamo in India adesso, anche qua, sai che si sta anche l'associazione qua a Milano che sta anche si unire, però solo quando si unisce diventiamo forte, e quando diventiamo forte nessuno non posso più vincere. Allora, solo la lotta in giro. Grazie. Vabbè, grazie a Abramo Inzongo per aver portato questa testimonianza. Secondo noi è fondamentale e importante raccontare il racconto, la narrazione, dare la parola, perché attraverso questi racconti, che noi non sappiamo più fare, nel senso che comunque quando ci capita qualcosa, non lo so, le loro parole semplicemente ci raccontano il paese in cui viviamo e ci raccontano quello che siamo noi italiani e quello che sono i nostri politici, molto più semplicemente di tanti discorsi complessi o che fanno magari gli italiani rispetto agli immigrati. E quindi per noi è importante, siamo contenti che siano loro a raccontare quello che vivono in prima persona. E quello, la piccola parte che possiamo fare noi è dare voce a loro. L'altro pezzettino che abbiamo voluto fare stasera, che tentiamo di fare stasera, è quello di invitare gli agricoltori, invitare i contadini. Invitare dei contadini e degli agricoltori magari un po' speciali o che noi conosciamo bene perché attraversano la Terra Trema. La Terra Trema appunto lavora con gli agricoltori da anni e con uno sguardo un po' differente da quello che a primo acchito comunque va di moda fare rispetto al cibo e all'agricoltura. Per noi appunto, come cercavo di raccontare prima, parlare di agricoltura vuol dire parlare anche di queste cose, vuol dire parlare di un modello di sviluppo, di un'economia, di una serie di cose. E quindi vogliamo fare questo tentativo e c'è qua Fabrizio che alleva capre nell'Alta Langa Astigiana, alleva capre e da cui ottiene il latte e che viene trasformato in robiola, un formaggio spettacolare. Però appunto Fabrizio ha anche un'attenzione particolare rispetto a quello che è il lavoro in agricoltura e magari ci può spiegare alcune cose. Tra l'altro domani Fabrizio partirà, andrà a Bruxelles a parlare di PAC, magari ci aggiunge un pezzettino anche rispetto a sta cosa. Io vi ringrazio per avermi invitato e ringrazio loro per aver raccontato questa storia che fa risuonare in me tante corde, che io non sono un agricoltore di tradizione, nel senso che io insieme ad altri quattro ragazzi abbiamo creato questa piccola cooperativa, le langhe, alleviamo capre, facciamo formaggio e con una discreta fatica, perché appunto iniziando da zero abbiamo tirato su un'azienda e abbiamo fatto diversi sacrifici, abbiamo fatto la vita, stiamo facendo in parte ancora una vita abbastanza dura, però lo facciamo a casa nostra. Se domani arriva uno della Banca Mondiale o del Fondo Monetario Internazionale o che ne so e dice che noi non possiamo più fare formaggio di capra perché neanche si deve fare soltanto il vino bianco, dico una cosa a caso, come quel ragazzo lì che diceva che in Africa aveva un piccolo allevamento, una piccola azienda dovuto chiudere per la guerra, anche noi molto probabilmente saremmo costretti a chiudere, no? Tutti i sacrifici che abbiamo fatto, e anche noi magari ci metteremo in macchina, carichiamo le nostre cose, prendiamo e andiamo, non so, in Germania, in Francia, andiamo a far vedere, a far fruttare, come ha fatto lui, l'esperienza che aveva raccolto. Ma noi non ci sbatte fuori nessuno. Ma noi se andiamo in Francia e qualcuno ci paga 25 euro al giornata, magari lo denunciamo, ma visto che siamo cittadini europei, no? Di pelle bianca, magari ci stanno anche a sentire. E magari queste persone che ci vogliono sfruttare, magari qualcuno le va anche a cercare. Non aspettano che ci coalizziamo in 200 e facciamo valere i nostri diritti, perché comunque abbiamo la pelle bianca e siamo europei. Questa cosa qui è una cosa che a me come cittadino italiano, prima che contadino, allevatore, è una cosa che mi distrugge. Io mi sono avvicinato a questa tematica perché i primi 2 anni della mia vita da contadino non riuscivo a tirare fuori i soldi per andare avanti e facevo le notti in un piccolo centro d'accoglienza gestito dalla cooperativa sociale e dalla Caritas a Canelli, non so se siete pratici, la Patria del Moscato, Gancia, Riccadonna, Martini e Rossi, cioè parliamo di miliardi. Le vigne, queste vigne fantastiche, sono gestite da 10 anni da macedoni, bulgari, rumeni. Non c'è più un italiano che ci lavora. Queste persone che vivevano in questo centro d'accoglienza, in condizioni non sono arrivate molto simili a queste qua, che avete visto. C'erano 50 persone in un appartamento di 120 metri quadrati. Queste persone chiedevano a me, fresco di laurea, che potevo fregiarmi il titolo di dottore, di chiamare i loro padroni perché non li pagavano. E io, con una paura fottuta, perché non è che sapevo chi trovavo di là, credendo di là ritrovare il mafioso, il boss Corleone, no? Telefonavo, no, ma non ci siamo capiti. No, ma dica pure di venire che domani aggiustiamo. Ah, ma no, ma è domani che li paghiamo. Gente piccola, gente meschina, gente che non aveva alcuna idea che il lavoro che facevano queste persone e che fanno tuttora era un lavoro che portava, cioè che aveva un'idea, ma che doveva essere pagato quello che valeva perché loro ci potevano speculare sopra. Questa cosa succede a Canelli, provincia di Asti, nord-ovest Italia, succede nelle stalle dell'Emilia Romagna, nei campi in Veneto, nelle Alpi. Ci sono storie di lavoratori stranieri segregati, chiusi nelle stalle. Certo, non si va a botte di 200-300 persone in una ex fabbrica, quindi questa cosa rimane molto, molto sotto traccia. Ma esiste anche qui nel nord Italia, e questa è una cosa che mi preme dirvi, perché noi, che magari abbiamo attenzione a quello che mangiamo, quello che vediamo, che magari siamo qua perché ci crediamo in queste cose qui, non lo sappiamo, il più delle volte questa cosa non ci tocca neanche. A me preme dirvi che è vero, l'agricoltura italiana è in una fase in crisi, ormai da secoli, no? Che è in crisi. Ma oggi viviamo in una fase in cui all'autosfruttamento, in che venivano le aziende agricole da sempre, in cui gli agricoltori non si sono mai contati le ore, quelle che lo fanno nella piccola azienda familiare, hanno sostituito in parte lo sfruttamento degli stranieri. Cioè si è arrivato a dire meglio loro che io. E questa qui è una cosa terribile. Abbiamo creato un campo di lavoro per deportati economici grosso come una nazione, grazie anche alle leggi che i nostri governi non vedono l'ora di promulgare. Leggi che vanno a volte anche contro quelle che sono le direttive europee. Poco dopo che è successo quello che è successo a Rosarno, l'Europa ci ha chiesto di far diventare legge una direttiva che, come succede per le prostitute, scusate il parallelismo, però gli immigrati che venivano sfruttati e che denunciavano i loro sfruttatori potevano, denunciandoli, avere presso il soggiorno temporaneo. Il governo italiano ha detto di no, 20 giorni dopo a quello che è successo a Rosarno. Questa situazione si ripete perché non c'è nessuno nelle altre sfere che abbia nessuna intenzione di fermarla. Lo sfruttamento di quelle campagne per mano dei mafiosi che gestiscono la filiera delle arance fino ai mercati generali, il mercato agricolo di Fondi è stato commissariato più volte per mafia, il secondo mercato agricolo d'Italia, sappiamo le infiltrazioni del mercato di Milano della mafia, gestiscono completamente la filiera. Queste cose qua le sanno tutti. Il comune di Fondi si è autodimesso un mese prima delle elezioni perché stava per essere sciolto per mafia e non potevano ripresentarsi gli stessi amministratori. Queste cose le sanno tutti quelli che lo vogliono sapere. Quindi io, cioè, non la voglio fare lunga perché il problema è molto complicato. Io domani andrò a Bruxelles per chiedere che nella PAC vengano inserite, che sono gli aiuti che l'Europa dà ai contadini, ma che dà soprattutto alle multinazionali agroalimentari, vengano in parte e preponderante dati ai piccoli, ma ci deve essere la condizionalità del lavoro, cioè queste persone, queste nazioni che vogliono questi soldi devono garantire, e devono garantirlo tramite delle ispezioni esterne, che non ci sia sfruttamento del lavoro, né autoctono né straniero. Questo deve essere una cosa che si lega, come l'inquinamento, come mille altre cose, deve essere automatica. Questa è una cosa che chiederemo fortemente domani, io non so se passerà, però noi lo chiediamo, perché noi siamo contadini e a noi non vogliamo vedere quelle cose lì. Perché io, che ci sputo l'anima lì dentro, pensare che ci sia qualcuno che viene sfruttato per fare quel lavoro che io amo, a me è una cosa che mi manda in bestia. Questo rimanga. No. tassello che secondo me però è un tassello fondamentale. In Italia, e ben chiaro che ce lo mettiamo bene in testa, c'è una recrudescenza del razzismo terribile. In Italia c'è una recrudescenza di razzismo verso tutto ciò che è diverso, a partire da chi la pensa diversamente, a chi ha la pelle di colore diverso, ma pensiamo ai casi di omofobia. Allora, soprattutto questo contesto economico completamente spatasciato, contro la distruzione delle reti sociali che ci stanno nella sparizione e nello sfruttamento della cultura, abbiamo un cappello terribile, un cappello di razzismo, un cappello di essere di nuovo tornati o piombati in una situazione da Virginia dell'Ottocento negli Stati Uniti d'America, in cui queste persone sono solo dei strumenti di lavoro, senza diritti, senza nessun tipo di possibilità di rivalersi. E questo più recentemente qui in Europa è valso i campi di sterminio, perché le persone erano considerate degli oggetti e non degli esseri umani. E il passo è molto breve, il passo è veramente molto breve. Okay. Abbiamo invitato anche Dario Oliviero, che è uno degli agricoltori che conosciamo da più tempo e secondo me ha una... Boh, vogliamo anche dare uno sguardo un po' differente rispetto appunto alla questione del lavoro in agricoltura. Magari Dario ci può aiutare a raccontare un'esperienza che è della cooperativa Sozzò. Sì, Paolo, grazie dell'invito, grazie a voi che siete qua stasera. Paolo mi ha chiesto di fare un po' come la Gabanelli, cioè prima ci sono tutti i problemi e poi c'è la cosa buona, no? Allora parlo brevemente della cosa buona, così ci tiriamo sul morale. Nel 90 abbiamo fondato questa cooperativa che si chiama Cooperativa dei Servizi di Sostituzione, che è una cooperativa fatta da aziende agricole. Al momento siamo circa 200 aziende agricole associate in più o meno tutto il nord Italia, e abbiamo alle nostre dipendenze circa 40 dipendenti che servono per sostituire i dipendenti delle singole aziende che per X motivi dovessero abbandonare il lavoro, o per le ferie, per malattia, per infortuni, speriamo pochi, maternità e quant'altro. I nostri collaboratori sono tutti, noi li chiamiamo extracomunitari, nel senso che la legge ce li fa in parte chiamare così, cioè vengono quasi tutti dall'area del Maghreb africano, e sono tutti lavoratori dipendenti regolari. A questi, oltre ovviamente al salario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vengono pagate le trasferte. Sentivo prima che addirittura loro dovevano pagare per essere portati sul lavoro, da noi invece paghiamo i nostri dipendenti per i costi che sostengono per andare sul lavoro. Dovessero dormire fuori, appunto, anche paghiamo l'albergo, eccetera, eccetera. Abbiamo un nostro alloggio in cui ospitiamo per tempi abbastanza brevi, cioè in attesa che vengano definite situazioni abitative più consone. Abbiamo questo alloggio a Cusago in cui ospitiamo per circa 6 mesi il lavoratore in attesa che trovi la sistemazione definitiva. Insomma, facciamo queste cose qui. L'anno scorso abbiamo fatto 7.000 giornate di lavoro, 7.000 giornate di sostituzione, quindi abbiamo fatto lavorare circa 40 persone. E un'altra delle cose che facciamo in questo momento di crisi è che moltissime aziende agricole chiudono. Dunque, premesso che noi lavoriamo quasi esclusivamente nel settore zootecnico, in particolare i nostri dipendenti sono mungitori oppure impiegati negli allevamenti suini. E in questo momento di profondissima crisi del settore, di tutti i settori, ma del settore agricolo in particolare, molti dipendenti di aziende che chiudono si rivolgono a noi per trovare una collocazione lavorativa. Mentre fino agli anni scorsi siamo riusciti a creare un giro tale per cui chi perdeva il lavoro venendo da noi riusciva a essere ricollocato, almeno molti di quelli che perdevano il lavoro venendo da noi venivano a essere ricollocati, oggi non riusciamo più in questa operazione, nel senso che sono decisamente più quelli che, avendo perso il lavoro, non riescono a trovare una ricollocazione anche attraverso la nostra cooperativa. E questo è un fattore, come dire, che indica qual è la profondità della crisi, soprattutto occupazionale, che ci troviamo di fronte. Ecco, niente, nel 2010 abbiamo festeggiato i 20 anni di attività, è una delle cose che mi hanno dato soddisfazione. I miei soci hanno voluto che da 20 anni facessi il presidente, ancora hanno rinnovato la fiducia, non so, io, ecco, questa è forse un po' la speranza che ho, che emerga qualcuno più giovane in grado di prendere un po' le redini nel carretto e tirarlo avanti, e per adesso, ecco, non vedo questa opportunità, e questo è un fatto che mi spiace un po'. Basta, questo qui era una cosa un po' alternativa alle cose che sono dette oggi, grazie. Abbiamo voluto invitare Dario perché ci sembrava importante dare un segnale così, che è chiaro, come accennava Fabrizio prima, che, come diceva bene Abraham, il fatto che comunque il problema in Italia rispetto al lavoro ai migranti è una questione di leggi, che se non cambiano le leggi, l'impegno dei singoli cittadini con delle progettualità possono essere dei segnali, ma non svolteranno la situazione a livello generale. E la situazione probabilmente può svoltare, come ci hanno raccontato loro, e è necessario fare dei passi in più. Quindi, non lo so, era importante raccontare questa cosa qua. Abbiamo invitato anche Gabriele Corte della Cascina Caremma e Victor, che mi dimentico sempre. Victor, beh, ci racconta Gabriele e Victor la storia. Anche qua è un po' una storia così, un finale a lieto fine o una storia diversa, e ci piaceva. Sì, una bella storia, forse molto semplice, anche normale se vogliamo, niente di eccezionale, però un bel incontro tra un'impresa agricola come la mia, che era 10 anni fa era in una fase di grande sviluppo e che aveva bisogno anche di manodopera. Non so se in questi discorsi è saltato fuori che c'è un problema di manodopera nell'agricoltura, ma nel senso che la manodopera locale o comunque italiana viene a mancare, c'è pochissime persone giovani, anzi farei un invito io a tutte le persone magari di rivolgersi anche al mondo agricolo, perché purtroppo ci sono pochissime persone del nostro paese ormai che si occupano. Quando Victor è arrivato, ha lasciato l'Ucraina dopo la caduta del muro di Berlino, con una situazione veramente, mi raccontava prima, disastrosa, cioè non si sapeva più cosa fare, non c'era lavoro. Prima di lui aveva lasciato il paese la sua moglie, e lui l'aveva raggiunta intorno nel 2000, dopo un anno che la moglie era già venuta in Italia. E attraverso la moglie, la famiglia dove lavorava la moglie, mi è stato presentato, e adesso, per farla breve, ha lavorato 10 anni, ha collaborato a questa nostra impresa in maniera molto bella. Anche, vi racconto un aneddoto così particolare, noi lavoriamo un po', cerchiamo di fare delle produzioni agricole particolari, stiamo scoprendo delle antiche ricette, stiamo cercando, e io volevo a tutti i costi trovare un modo per fare degli insaccati affumicati. E mi ricordo un giorno che chiedevo così un po' a destra manca con qualcuno che ci desse delle dritte, e salta fuori Vittorio e mi dice: ma guarda che noi queste cose le facciamo da sempre. E pian pianino, insieme a lui, abbiamo messo a punto una fumigazione di maiale, che ci ha dato tantissima soddisfazione. Ma questo ve l'ho raccontato per dirvi che lo scambio tra culture c'è sempre un arricchimento reciproco. Non so, questa è la mia esperienza, che è un'esperienza veramente positiva. Noi ci siamo arricchiti perché il suo lavoro è stato prezioso, ci ha portato delle grandi idee. Adesso così voglio sentire lui cosa ne pensa. La cosa bella che chiude la storia è questa: lui dopo 10 anni, la moglie è già tornata in Ucraina da qualche anno, adesso raggiunge, si riunisce alla famiglia con la voglia di, in una situazione tra l'altro del suo paese completamente cambiata per certi aspetti, anche se anche lì c'è una grossa crisi economica, ma sicuramente ci sono delle prospettive diverse. Lui sicuro penso abbia colto un po' uno spirito imprenditoriale, abbia colto un po' di aspetti così della nostra vita, di gente che si sta da fare per realizzare qualcosa, e adesso sentiamo un po' cosa mi dice questa sua esperienza. Buonasera a tutti, sono Victor, vengo da Ucraina. È stata mia esperienza quasi 10 anni, perché sabato prossimo ritornerò indietro in Ucraina. È stato molto bello qua in Italia, come si dice, imparato tante cose, sono lo sapevo di là, perché anche di là io ho lavorato in agricoltura, ce l'ho sulla terra, ma quando ho lavorato non guadagnavo niente, e per forza dovrebbe cercare dove devo guadagnare. E arrivato qua in Italia, come raccontava Gabriele, come ha trovato lavoro, è andato da lui, in 10 anni si è trovato molto bello, mi dispiace, diverso da queste ragazze. E devo ringraziare te lui, perché non solo lui, tutta lui e famiglia ha raccolto me bene durante questi 10 anni. E come si dice, molto bello è stato qua, gente, trovato italiani che ha lavorato con me, siamo tutti amici, come si dice, molto raccoglienti, e così. E adesso, questa settimana, torno a casa. Non so se qualcuno ha delle domande o se c'è altro da aggiungere, ma non so, è stato un tentativo di fare una riflessione diversa con la Terra Trema, che il 12 novembre torneremo al Cinema Messico e presenteremo la Terra Trema 2010 ufficialmente, che sarà a fine novembre, 26, 27, 28 a Leoncavallo. E niente, questo è, ognuno si porti a casa un pezzettino di questa riflessione, e niente, noi indicazioni e vie difficilmente le diamo, facciamo la nostra piccola parte. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qua. Grazie.